bastone, parodia di regime di una nazione annoiata ed abitudinaria, ironica storia d'Italia. Tutto è pronto, l'inverno è passato, finalmente è arrivato il momento di esporre la merce sopra i banchi di questo mercato. Cambia lo stile, importa. Di riflessione sulle molteplici possibilità che ha uno Stato di organizzarsi, sono arrivato alla conclusione che la democrazia è il sistema più democratico che ci sia. Dunque c'è la democrazia, la dittatura e basta, solo due. Credevo di più. La dittatura in Italia c'è stata e chi l'ha vista sa cos'è, e gli altri si devono accontentare di aver visto soltanto la democrazia. Io da quando mi ricordo sono sempre stato democratico, non per scelta, per nascita, come uno che quando nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico, pazienza. Apostolico non so cosa vuol dire, ma pure romano no. D'altronde diciamolo, come si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario c'è scritto che democrazia significa potere al popolo. Sì, ma in che senso potere al popolo? Come si fa? No, perché questo sul vocabolario non c'è scritto. Però si sa che dal 1945, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto al voto. È nata così la democrazia rappresentativa, che dopo alcune geniali modifiche fa sì che tu deleghi un partito, che sceglie una coalizione, che sceglie un candidato, che tu non sai chi è, e che tu deleghi a rappresentarti per 5 anni. E che se lo incontri per la strada ti dice giustamente: lei non sa chi sono io. Infatti non. Ecco, questo è il potere del popolo. Ma non è solo questo, ci sono delle forme ancor più partecipative. Il referendum, per esempio, è una pratica di democrazia diretta. Non tanto pratica, per la verità. Attraverso la quale tutti possono esprimere il loro parere su tutto. Solo che se mia nonna deve decidere sulla variante di Valico, Barberino, Ronco, Bilaccio, ha effettivamente qualche difficoltà. Anche perché è di Venezia. Per fortuna deve dire soltanto sì se vuole dire no, e no se vuole dire sì. In ogni caso ha il 50% di possibilità di azzeccarla. Sì, ma il referendum ha più che altro un valore folcloristico, perché dopo aver discusso a lungo sul significato politico dei risultati, tutto resta come prima e chi se ne frega. Un'altra caratteristica fondamentale della democrazia è che si basa sul gioco delle maggioranze e delle minoranze. Se viene fuori il 49 perdi, se viene fuori il 51 vinci, dipende tutto dai numeri, come il gioco del lotto. Sì, soltanto che col gioco del lotto qualche volta il popolo vince, In democrazia mai. E se viene fuori 50-50? No, perché questa è una particolarità della nostra democrazia. Non c'è mai la governabilità. È cominciato tutto nel 1948. Se si fanno bene i conti, tra la destra, DC, liberali, monarchici, missini, e la sinistra, comunisti, socialisti, socialdemocratici, eccetera, eccetera, viene fuori un bel pareggio. Da allora è sempre stato così, per anni. Adesso no, adesso è tutto diverso. Per forza sono spariti alcuni partiti, le formazioni politiche hanno cambiato nomi, leader. Adesso non c'è più il 50% a destra e il 50% a sinistra. Adesso c'è il 50% al centro-destra e il 50% al centro-sinistra. Oppure un 50, virgola, talmente poco che basta che uno abbia la diarrea che salta al governo. No, non c'è niente da fare, sembra proprio che il popolo italiano non voglia essere governato. E ha ragione. Ha paura che se vincono troppo quelli di là viene fuori una dittatura di destra. Se vincono troppo quegli altri una dittatura di sinistra. La dittatura di centro invece quella gli va bene. Auguri. Bentrovati in studio, oggi partiamo con un po' di ritardo. Come Trenitalia. Come Trenitalia, abbiamo fatto un'oretta di ritardo, diciamo che abbiamo trovato problemi sulla tratta, quindi c'era un blocco ferroviario. Partiamo comunque con la seconda puntata di questa nuova stagione degli Scarafaggi con le news. Avremo il professor Laghi, il dottor Laghi in diretta telefonica subito dopo la prima pausa musicale. Sì, sì, subito dopo la prima pausa musicale, insomma, che ci parlerà dei danni da discarica e dallo smaltimento dei rifiuti, diciamo, che sono tanti per la salute umana e per l'ambiente. Adesso ne sapremo ancora di più. Per il resto, un piccolo aggiornamento di quello, sì, che è successo, facciamo la colata e novità su Orso Marzo, Orso Porco, insomma tutte le cose che sono successe in regione, che sono tante. Volevo ricordare che il monologo che abbiamo sentito all'inizio è un testo di Giorgio Gaber letto da Isabella Ferrari in uno spettacolo teatrale che si chiama È stato la mafia, insomma un buon inizio, insomma. Abbiamo sentito dalle parole di Gaber, sono delle cose talmente attuali che insomma viviamo sulla pelle tutti i giorni, anche perché i nostri rappresentanti istituzionali, anche per quanto riguarda la nostra bella discarica, non sappiamo chi sono, perché, dove sono, che cosa fanno, che cosa pensano, perché insomma la discarica continua a rimanere aperta, dopo ne parleremo più dettagliatamente, continua a rimanere aperta nonostante sia illegale e legittima da molti punti di vista. Poi chiederemo anche lumi al professore dopo sui danni, insomma, che una discarica non costruita non in maniera idonea alle normative può portare alle popolazioni che ci vivono intorno, insomma. Parliamo di distanze minime di sicurezza, falde acquifere e via discorrendo, insomma, dopo ne discuteremo. Per il resto penso che possiamo andare veloci, andiamo subito con un pezzo musicale. Come... Sì, facciamo puntata un po' più rapida. Diciamo una... siamo in ritardissimo, facciamo una puntata un po' espresso, più... espresso, ma rapido Trenitalia. Rapido Trenitalia, tu ti chiami anche Italo, insomma. Concorrenza. Ecco, concorrenza. La concorrenza sleale di Italo che arriva pure in ritardo, va bene. Grande Montezemolo. Vabbè, andiamo in pausa 2 minuti e poi ritorniamo con il Dottor Lang. Bentornati in onda, siamo con il nostro ospite, il dottor Fede Andolaghi, uno dei massimi esperti in Calabria, ma forse non solo in Calabria, anche a livello nazionale in merito alle questioni legate salute e ambiente, nonché quindi presidente di Medici per l'Ambiente. Mi corregga se sbaglio. Buonasera a tutti, sono vicepresidente nazionale di Italia Medici per l'Ambiente. Perfetto. Buonasera dottore. Buonasera. Grazie mille per essere con noi. Allora, lei conosce benissimo ovviamente la questione della discarica di Celico, è stato con noi anche in un incontro pubblico lì a Celico e volevamo farle qualche domanda in merito alla discarica di Celico, ma diciamo alle discariche in generale, per dare un po' di informazioni a chi vive intorno a questi ecomostri. Abbiamo qualche domanda per lei. La prima, se posso partire... parto proprio dalla problematica che interessa maggiormente noi, ovvero questi odori che fuoriescono dalle discariche e giungono nei centri abitati, come per esempio Rovito, che ricade a meno di 1000 metri dalla discarica di Celico. Sono dannosi, perché l'ARPACAL dice che non riesce a misurarle perché non ha le strumentazioni, mentre per esempio in Lombardia abbiamo visto che ci stanno dei regolamenti proprio regionali che normano le emissioni odorifere e la cosiddetta puzza. Sì, sì. Dunque, per la verità, le emissioni odorifere comunque costituiscono un disagio, se non un pericolo, diciamo, per le popolazioni che abitano attorno alle discariche di rifiuti. E in realtà sono una delle cinque componenti, poi se c'è tempo parliamo anche delle altre, che rappresentano una controindicazione proprio ad abitare vicino a queste discariche, che per loro natura, per la verità, se fossero legali, non dovrebbero determinare emissioni in ambiente di cattivi odori. Per quale motivo? Perché in realtà la legge, la legislazione europea recepita dalla legislazione italiana impedisce di conferire il tal quale in discarica, cioè è proibito portare in discarica in Italia e in Europa il rifiuto in quanto tale, né se posso dire le tecniche di deferrizzazione, cioè togliere con un magnete gli elementi ferrosi, e quello di tritovagliatura, cioè sminuzzare l'umido, rappresentano dei trattamenti a detta dell'Unione Europea, quindi che fa legge, che è un riferimento a normativa a riguardo, rappresentano un adeguato trattamento. Quindi le discariche che accolgono materiale organico peggio triturato, cioè nel senso che la tritovagliatura non fa che sminuzzare il contenuto per permettere un minor ingombro, ma per esempio accelera i processi putrefattivi e quindi i cattivi odori. Per cui voglio dire, tra l'altro, diciamo soprattutto nelle stagioni estive, queste situazioni sono particolarmente fastidiose e disturbanti, quando non nocive, e lo diremo, diciamo, intorno a queste discariche, e si può arrivare, diciamo, nella stagione estiva, anche con in rapporto ai venti prevalenti, a emissioni che risultano disturbanti fino a 2 chilometri dal punto di raccolta di rifiuti, che, ripeto, non sono per questo stesso motivo legali. Poi c'è tutta, insieme alle emissioni odorigene, ci sono naturalmente problemi collegati eventualmente alla presenza certa di percolato, perché naturalmente il percolato si forma con le piogge, con le acque meteoriche, con le piogge che vanno a diluire e vanno quindi a favorire i fenomeni putrefattivi, e quindi si innesca tutto un sistema che non è soltanto di disagio per chi abita intorno, che pure, cioè, uno non può stare con le finestre forse sfrangate a qualsiasi stagione dell'anno sperando che la puzza non si infiltri, no? tanto per dire, ma che è una delle componenti di un problema che può avere pesanti ricadute per la salute. Perfetto, perfetto. Finalmente ho fatto un po' di chiarezza per chi ancora dice che questa puzza non fa male. Mentre in merito... Inviterei chi appunto chi dice queste cose, cioè, l'alpaca lo dice, diciamo, l'alpaca, purtroppo non lo dicono, le persone a trasferirsi a Celico, a Rovito oppure nelle vicinanze. Probabilmente il problema, la cosa gli renderebbe più sensibili al problema. Sì, sì, beh, in effetti io a un dirigente dell'alpaca gli ho proposto di fare a scambio di casa, no? Ho detto, io vengo da voi, voi venite da me, quindi facciamo anche un'opera umanitaria da questo punto di vista. Sempre in merito alla discarica e anche alla vecchia che sta a monte alla nuova discarica, l'ARPACAL ha rilevato in alcuni test effettuati delle concentrazioni di manganese al di sopra dei limiti stabiliti dalla legge. Può essere un problema, cioè, nel senso, al di là del fatto che non hanno fatto il piano di caratterizzazione e le analisi di rischio per verificare se è un elemento presente già di soglia naturalmente nel posto, può rappresentare un problema questo manganese oltre il limite stabilito, per quanto siano veritieri i limiti, ovviamente. Sì, dunque, allora, cioè, lei ha introdotto un problema importante e interessante, cioè il problema dei limiti di legge. Allora, c'è da dire che cioè, i limiti di legge sono una negoziazione, un compromesso tra esigenze diverse, esigenze di salute, esigenze diciamo industriali, esigenze di lobby che orientano verso determinate scelte, è stato della conoscenza scientifica del tempo. Ma dal punto di vista strettamente scientifico, un elemento tossico non è che al di sotto di una certa soglia, in questo caso appunto la soglia di legge, diventa innocuo, diventa soltanto meno tossico. E sempre a questo proposito bisogna ricordare come anche negli ultimi decenni, non negli ultimi secoli, alcune sostanze che 10, 20, 30 anni fa avevano una soglia diciamo che si riteneva sicura, oggi si scopre che quella soglia è 500 volte più alta magari degli attuali limiti di legge. Quindi il portato scientifico del tempo ha una valenza pure importante, ma non è finita qui, perché quando noi parliamo di limiti di legge ci riferiamo a ogni singolo composto e a ogni singola fonte inquinante. Soltanto che il nostro organismo non funziona così. Il nostro organismo recepisce naturalmente tutte le fonti inquinanti dell'ambiente in cui si trova, per cui che si trovano, queste fonti si trovano a lavorare in negativa sinergia nei confronti dell'organismo. Quindi è ancora una volta i singoli agenti inquinanti, di cui magari si conosce una tossicità certa per un determinato organo, per un determinato sistema dell'organismo, per esempio penso alla atrazina, si scopre poi magari, che adesso non viene più prodotta proprio per i danni che faceva, si scopre che magari funziona a concentrazioni molto minori, per esempio come interferente endocrino, cioè l'atrazina per esempio funzionava come interferente endocrino a concentrazioni 30.000 volte più basse di quelle diciamo consentite quando aveva un limite di soglia prima di essere ritirata diciamo dal commercio. Quindi questo che cosa sta a indicare? Come in realtà, se si vuole fare una prevenzione reale, la prevenzione primaria, cioè che è l'unica forma di prevenzione codificata e che si può accreditare di questa definizione, deve consistere nella eliminazione dei fattori di rischio che mettono a repentaglio la nostra salute. E questo è ancora più vero, importante e obbligatorio se i fattori di rischio vengono da opere o diciamo da iniziative inutili alla collettività o dannose, pregiudizi, cioè proprio questo le sa anticipatamente, non necessarie diciamo alla collettività stessa. E quindi sì, è proprio così. Proprio allacciandomi a quanto ha detto adesso, dottore, io vorrei chiedere una cosa, perché la situazione della discarica di Celico, insomma, come in tanti altri territori, insomma, le storie sono molto simili. Nell'area dove è sorta questa nuova discarica di proprietà dell'Amiga, insiste già una vecchia discarica che non è mai stata portata a bonifica. Cioè, non è mai entrata a bonifica, hanno fatto solo un mezzo piano di caratterizzazione, messa in sicurezza, insomma, che non serve praticamente a nulla, anche perché abbiamo appurato che sono stati sversati dei rifiuti ospedalieri anche in quella discarica, quindi senza i teli protettivi moderni, perché è una discarica vecchia degli anni 90, quindi e via discorrendo. Secondo lei, cioè, è ammissibile appunto che in un'area già pesantemente inquinata venga data autorizzazione per la costruzione di una nuova discarica? Questo non da un punto di vista giuridico, ovviamente, chiedo a lei. No, purtroppo io posso soltanto dire, fare qualche considerazione. Purtroppo questa è la norma, cioè in Calabria e non solo, un sito, cioè è molto più facile caricare un sito già inquinato, quindi anche nell'immaginario collettivo un sito in qualche modo dato per perso, e quindi abbinare inquinante e inquinante, discarica a discarica, ampliamento ad ampliamento, piuttosto che aggredire un ambito diciamo vergine, dove presumibilmente le popolazioni avrebbero qualcosa in più da dire e la mobilitazione sociale sarebbe più probabilmente vivace. Quindi questo io credo che attenga proprio a una strategia che non è soltanto a Celico in Calabria, ma è un po' dappertutto. A me capita di girare un po' per l'Italia per questo tipo di problemi e vedo che veramente classicamente piove sempre sul bagnato. Per quanto riguarda invece quello che la notizia che mi ha dato, che la precedente discarica è degli anni 90, quindi proprio concettualmente non può essere stata costruita con le norme successive più avanzate nella costruzione delle discariche, che credo sia del 2003, comunque è dopo il 2000, quindi è strutturalmente una discarica inadeguata per quanto riguarda diciamo, la struttura diciamo, prevista dall'attuale normativa. Poi anche vabbè, il piano di caratterizzazione lascia il tempo che trova, nel senso che voglio dire, non è che il piano di caratterizzazione riduce l'impatto sulla salute di una discarica, si dice vagamente, dico vagamente, quali possono essere i rischi più rilevanti, quali siano gli elementi, le sostanze eccetera che sono diciamo più rappresentate e quindi più pericolose, però una discarica di tal quale è voglio dire pregiudizialmente una discarica potenzialmente dannosa, in quanto nel tal quale ci si trova di tutto, quindi come dicevo percolato, che è una mistura di metalli pesanti, quindi voglio dire, dato che ci sono c'è l'umido e quindi che è un terreno fertilissimo per lo sviluppo di agenti biologici a rischio che poi vengono portati in giro dai vettori, quindi animali, insetti e tutto quanto, quindi è concettualmente un elemento di pericolo per la salute. Dopodiché nel tempo un manufatto, ma anche le ultime discariche, non sono certo eterne, quindi una fissurazione, un telo malfatto, una rottura del fondo eccetera, fa sì che il percolato si infiltri e quindi esca dall'ambito della discarica e vada a inquinare. Questo è un altro degli aspetti diciamo di rischio classicissimi delle discariche, vanno a inquinare terreni ed eventualmente falde d'acqua se sono nelle vicinanze. I terreni è particolarmente grave se si tratta di terreni agricoli e queste sono le modalità con cui una discarica, i tossici presenti, i tossici inevitabili, non c'è da cercare nulla, uno ci può cercare per curiosità per sapere se è più questo o più quello, ma le sostanze tossiche inevitabilmente contenute in una discarica di tal quale entrano diciamo, appunto, attraverso il terreno, attraverso le acque, nel ciclo alimentare e quindi arrivano fino all'uomo. Quindi noi alla fine quei rifiuti, cioè le sostanze più pericolose contenute in quei rifiuti, ce li beviamo e ce li mangiamo. Quindi perfetto, una domanda proprio da paziente che bellissimo. Penso che vogliano fare un po' tutti i cittadini della Presila. Io che vivo a poche centinaia di metri da una discarica di questo genere, io e la mia famiglia, quali rischi di salute corriamo da qui a lungo termine? Ma devo dire che la letteratura scientifica è soprattutto ampia per quanto riguarda soprattutto per le discariche di industriali e quindi non tanto per le discariche di rifiuti solidi urbani, e che il livello di pericolosità delle discariche è certamente meno rilevante di quello determinato dagli inceneritori. Comunque ci sono ampi studi diciamo, assolutamente diciamo, robusti che dimostrano come la vicinanza alle discariche, per esempio, determina una maggiore incidenza di basso peso alla nascita, che è un fattore di rischio per i nascituri, di malformazioni fetali, per esempio, oltre eventualmente a un rischio biologico, come dicevo prima, e poi i singoli lavori di volta in volta segnalano una prevalenza di questo, di quella patologia, probabilmente correlata con la prevalenza di una certa tipologia di rifiuto conferito in quella o in quell'altra discarica. Perfetto, quindi giusto per chiudere, una domanda magari un po' più, non lo so, sociale, politica, nel senso che chi ha fatto questa discarica in questa zona incredibile, perché quasi a 1000 metri, a meno di, dalle metri di altezza, a meno di 1000 metri da centri abitati di Celica e Rovito, con tutte le, a meno de, non rispetta la distanza dei corsi d'acqua, dalle vie, dalle strade ferrate, dalla statale, insomma c'è una serie di illegittimità, oltre al fatto di operare la lavorazione dell'umido quando la fa, o della biostabilizzazione del tal quale, senza, in modo aerobico, quindi senza contenere gli odori. Cioè, e in questo momento noi sappiamo che questa discarica addirittura sta per essere ampliata, raddoppiata. Cioè, politicamente, cioè, qual è la scelta, qual è la visione di territorio, a livello sia ambientale ma anche a livello di tutela della salute di chi lo abita? No, vabbè, ma voglio dire, questo è il problema di fondo, no? Cioè, ancora qualcuno deve spiegare qual è il meccanismo per cui la Calabria, che è stata in regime commissariale per 17 anni e su cui sono investiti fra un miliardo, circa 1,2 miliardi di euro, comunque fra il miliardo e il 1,5 miliardi di euro. Sì, sì, una cifra colossale. Sì, perché non si sa nemmeno in realtà quale sia la cifra esatta, proprio per la sciatteria, chiamiamola così, con cui sono stati tenuti i conti, no? Cioè è stata commissariata proprio per l'incapacità di risolvere il problema dei rifiuti, partendo da discariche e incenerimenti. Dopo, mentre noi sappiamo benissimo, ormai è patrimonio, credo, culturale comune, che diciamo il ranking di priorità, le priorità stabilite dall'Unione Europea e recepite dai singoli Stati membri, prevedono al primo posto la riduzione nella posizione dei rifiuti, poi il recupero, il riutilizzo e quindi, voglio dire, il recupero energetico, che è al penultimo posto, e all'ultimissimo posto la discarica. Allora, noi siamo partiti dal quarto e quinto posto, cioè penultimo e ultimo posto, e dopo 1,5 miliardi di euro siamo ancora al quarto e quinto posto. Cioè, voglio dire, è del tutto evidente che neanche in una regione disgraziata come la Calabria queste cose possono succedere per caso, ma che questa gestione, diciamo, non può, come gli atti parlamentari chiaramente indicano, le commissioni parlamentari sul ciclo dei rifiuti e sulle ecomafie dimostrano che a orientare queste scelte è stata la criminalità organizzata, che ne ha fatto grandissimo guadagno, diciamo, in tutti questi anni. Perfetto, come al solito è stato illuminante, per noi che la conosciamo già, speriamo anche per chi era in ascolto. La ringraziamo e speriamo di risentirci e rivederci presto. Grazie a voi. Grazie a voi. Dottore, buona serata. Buon lavoro a tutti. Grazie. Ora andiamo subito con una pausa musicale. Sì, anche perché insomma dopo quando abbiamo ascoltato dobbiamo un attimo... Giudice! Demonio di un giudice, Mastro Andrea. Tu hai ascoltato, lo so che ci ascolti. Il mastro di Chiari. Facci un commento su Facebook, dai. E soprattutto aiuta a stare in scarica, vai. Andiamo con un pezzo musicale, poi ritorniamo, insomma, diamo un pochino le news. E chiudiamo appunto, così. Appunto dalla regione, chiudiamo con giudice Andrea appunto. Lose. Allora, bentornati in studio, noi siamo gli Scarafaggi, abbiamo ascoltato insomma dalla viva voce del dottor Laghi quali sono i rischi che si corrono insomma a vivere in prossimità di una discarica, soprattutto se tale discarica è costruita con le distanze minime di sicurezza, appunto vengono chiamate di sicurezza e ci sarà una ragione. Quindi con le distanze minime di sicurezza appunto non rispettate, quindi sono tutta una serie di, come abbiamo detto, di rischi per la salute, per la vivibilità dei luoghi, per l'ambiente, quindi erano cose già note, ma è meglio ribadirle perché insomma le persone, soprattutto i politici, tendono sempre a dimenticarle. Io non sono d'accordo su questa cosa perché il nostro grandissimo presidente Mario Gerardo Gerard Oliverio è per zero discariche, l'ha inventata lui la strategia zero discariche, e tra 2 anni non ci saranno discariche in Calabria. Però mi sorge una domanda, io che sono un grande estimatore tesserato del PD, ho votato e voto da sempre il PD anche quando non c'è il PD, c'era la DC, io votavo PD votando la DC, volevo sapere come mai, se tra 2 anni chiuderanno tutte le discariche, come mai a Celico in questo momento è in corso la costruzione dell'ampliamento della discarica, il raddoppio volumetrico della discarica che insiste sul nostro territorio, come mai si stanno costruendo i campioni a valle a pochi metri dal fiume Pinto, dal torrente Pinto, e come mai si ci avvicina sempre più al centro abitato con questo ampliamento? Che si fa? Vuol dire che importeremo rifiuti dallo spazio e quindi la riempiamo in 2 anni? Oppure questa zero discarica è un vuoto slogan politico portato avanti per accumulare anche i voti degli ambientalisti legalitari, quale una frazione mai dei Verdi, che è non quella che conosciamo noi, no? Una serie di ambientalisti di cartello che trattano la tematica ambientale con mediocrità e superficialità come se fosse una tematica di secondo piano. Io una domanda che voglio fare è questa. Sì, vabbè, partiamo dal presupposto, insomma, Italo, che una discarica del genere in Presila non è voluta da nessuno. Cioè, a parte i politici che hanno firmato le carte, gli amministratori che hanno firmato materialmente le autorizzazioni e tutto il resto, cioè il 99% della popolazione presilana quella discarica non la vuole. Quindi è chiaro che uno slogan del genere serve a tenersi buoni quel bacino di voti, no? Che Olivero ha raccolto anche questa volta alle elezioni regionali, che ha vinto. Perché insomma i voti della Presila sono stati, non dico determinanti, ma comunque hanno contribuito fortemente alla elezione di Oliverio, no? dei rappresentanti di lista e via discorrendo, tra cui anche il giudice Andrea, che insomma si dichiara, che ha firmato il documento insieme ai sindaci per chiudere questa discarica, che spara su Facebook dei post in cui dice che dal 1 ottobre la discarica è chiusa perché l'emendamento Orso Marzo non è stato rinnovato. Appunto di questo si tratta, perché insomma zero discariche è soltanto un modo per dire continuiamo così, perché poi in realtà la politica sui rifiuti, siamo ad ottobre, ancora non c'è un piano dei rifiuti, i rifiuti vanno comunque smaltiti da qualche parte, e le uniche discariche disponibili in Calabria sono queste, sono Celico, sarà aperta Scala Celi, che poi non è nemmeno una discarica ma un altro impianto di trattamento, verranno aperte altre discariche, mi sembra nel Regino, nel Catanzarese, nel Regino, non ricordo bene, e quindi le aziende che trattano i rifiuti continuano a lucrare, a fare business su una fetta importante insomma di economia calabrese. Quindi zero discariche non vuol dire assolutamente niente, anche perché all'ultimo consiglio regionale non si è discusso di nulla, il dispositivo emesso dalla regione, tra l'altro nemmeno pubblicato sul sito, che ha sbandierato il sindaco di Celico in una occasione pubblica degli ultimi tempi, autorizza la discarica di Celico continuare insomma a ricevere rifiuti da impianti tipo quelli di Scala Celi e di Calabria Maceri, quindi che abbiano avuto comunque un trattamento, e quindi l'ampliamento della discarica di Celi corrisponde a questo, comunque a il funzionamento del circuito pubblico dei rifiuti gestito dai privati, cioè, perché poi fondamentalmente è questo. L'Orso Marzo era un modo per dare la possibilità a questi privati di accogliere anche in deroga alle leggi vigenti europee e nazionali, i rifiuti solidi urbani dei comuni che non facessero nemmeno la differenziata, e quindi di conseguenza adesso che la differenziata è partita loro sperano di abbancare in discarica quanti più rifiuti trattati possibile, e quindi la discarica non si chiude. Infatti, in merito a quello che stai dicendo, facciamo giusto un punto della situazione, è che le vittorie della, non solo del comitato fondamentalmente, ma di tutta quella parte della popolazione e della politica che si è impegnata a favore della chiusura di questo impianto, sono comunque sotto gli occhi di tutti, nel senso che sia due anni fa, quando sono state cambiate le ordinanze durante i blocchi, sia quest'anno, per esempio dal 14, grazie al nostro documento firmato dai sindaci, in cui chiedevamo la sospensione della lavorazione dell'umido e della biostabilizzazione del tal quale, fino a quando non venisse realizzata la copertura. Chiedevamo il non rinnovo dell'emendamento Orso Marzo e chiedevamo il ritiro dell'AIA. Diciamo che due punti su tre pare che li abbiamo ottenuti, nel senso che in questo momento fino allo scadere dell'ordinanza condivisa urgente potranno trattare questi rifiuti che hanno trattato finora. Al di là di questo, non rinnovando l'emendamento Orso Marzo, se non lo rinnoveranno, perché il giudice Andrea dice che non lo rinnovano più, però non è detto che se non l'hanno rinnovato fino adesso non lo potranno rinnovare o riproporre sotto altri nomi o addirittura introdurlo nel piano rifiuti. Esatto. Diciamo che quando c'è stato il rinnovo lo scorso anno c'è stato un lasso di tempo di 15 giorni in cui l'Orso Marzo non c'era più in vigore, quindi ancora il tempo c'è. Non è detto che se non è stato rinnovato nel mese di settembre non venga rinnovato. Noi speriamo di no, siamo sicuri di no, anzi, perché zero discariche, ci mancherebbe che noi ci mettiamo a calunniare o a pensare male di questi illuminati. Cioè, voglio dire, non ci permetteremo mai di mettere in discussione, come ho detto l'altra volta, l'unico che può essere messo in discussione, non può essere messo in discussione, sapete già chi è, oltre a Dio, non lo ripeto più. Però purtroppo è nato un inghippo, nel senso che non rinnovando l'emendamento Orso Marzo, a noi, il nostro caro amico che si sta spaccando gli occhi sulle carte, Vincenzo, insieme al nostro avvocato Marcello Nardi, hanno trovato un piccolo cavillo, nel senso che nel piano del 2007 era previsto la possibilità di utilizzare le discariche private, quindi solo la discarica senza impianti di pretrattamento, per l'abbanco dei rifiuti indifferenziati, si spera non di tal quale. Quindi in questo caso che succede? Non rinnovando l'emendamento Orso Marzo e mantenendo attiva l'autorizzazione integrata ambientale, Cerico rimarrà semplicemente un polo di trattamento di nulla, nel senso che sarà operativa solo la discarica, che sarà ampliata, che si sta ampliando, e quindi ci troveremo, non dico punti a capo, però comunque sempre con la situazione impattante, nel senso che verrà utilizzata questa discarica di oltre 300.000 metri cubi. Fino all'esaurimento, con un'AIA che è autorizzazione ambientale, che è valevole dal 27 ottobre 2014 per 12 anni, grazie al...